pagar. Una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Non so se a voi capita, a me capita tutti i giorni, o almeno capita quando ci pongo l'attenzione. Mi accade di vedermi circondato da mostri. Mi guardo intorno alle persone che ho accanto sedute in metropolitana, lungo la strada, a volte anche i colleghi d'ufficio che poi conosco bene, spesso, ma lo dico sottovoce per non farmi sentire, anche guardando attentamente i miei familiari. È come se io fossi l'unica persona che appartiene a un altro mondo circondato da mostri, alieni. Improvvisamente mi accorgo che sono in un mondo di alieni. Naturalmente una nevrosi, naturalmente è un prodotto di un immaginario malato, ma a voi accade mai di vedervi circondati da mostri? Guardate, non è un discorso fisognomico, lombrosiano, perché sono persone brutte, anche persone belle. Li guardi attentamente e ti sembra di scorgere dentro di loro una sorta di mostruosità. Non è mai una mostruosità fisica, nemmeno una mostruosità legata ad aspetti e criminali del loro comportamento. Sono persone normalissime e proprio nella normalità sta la loro mostruosità. I veri mostri non sono quelli che al primo colpo d'occhio ispirano orrore. È ingenuo pensare che l'uomo mostro possa assomigliare a creature che nascono dalle nostre peggiori paure, dai nostri sensi di colpa, dalle forme che la letteratura del fantastico si è inventata per raccontare la parte oscura di ognuno di noi. Presto, prendi una corda! Portiamolo in cantina! Uccidetelo! È un mostro! Non si cerchi nemmeno il segno della mostruosità dell'essere umano nel suo non essere in linea con i modelli estetici di quella che pensiamo sia la norma. Non è il deforme ad essere il vero mostro. Molto spesso, la più orribile delle mostruosità di cui siamo capaci si nasconde sotto le più banali e comuni delle persone. E ora, signore e signori, seguitemi da questa parte. Vado a presentarvi la più incredibile, la più stupefacente mostruosità che sia mai vissuta sul nostro pianeta. Dio mio! Questa era un tempo una donna bellissima. E infatti quella era Cleopatra, Olga Bakakhanova, la protagonista del film Freaks di Todd Browning del 1932, un film terrificante, in cui i mostri, quelli veri perlomeno e nella logica politicamente scorrettissima del tempo, erano coloro che avevano mostruosità fisiche evidenti, difformità anatomiche. E lei, l'unica bella, la regina dei mostri, improvvisamente ci si rende conto che è la più mostruosa di tutti. E con lei capace di prendere in giro i sentimenti di un povero nanerottolo e irriderlo, prenderlo in giro, e quindi anche lei sarà mostrificata. 800240024, vi prego, aggiungete un vostro mostro alla mia collezione. Le cronache quotidiane ci ammoniscono di continuo sul fatto che dietro l'aspetto rassicurante di ogni nostro simile potrebbe nascondersi un esempio agghiacciante di perversione, crudeltà, spietatezza. Non è stata concessa la semilibertà a Luigi Chiatti, il cosiddetto mostro di Foligno. Allora guardiamo come si è comportato il mostro quella volta. Josef Fritz, da 73 anni, il mostro di Amstetten in Austria. Per la prima volta si è preoccupato di nascondere i corpi, cioè di ritardare la scoperta del delitto. Quest'altro mostro invece ha 45 anni e la figlia 21. Ma i veri mostri siamo noi. Sono quelli come noi. Per questa ragione, una felice tradizione della commedia italiana, puntualmente e in periodi successivi, ci ha informato sui veri mostri da cui dovremmo guardarci, che altro non sono che quelli come noi. Ciao Giada, scusami con René Chilone, ma questa sera ho promesso a mamma di andare dalla principessa Altopradi. C'è una riunione per lo scisma Le Febbre. Io non so neanche dove sia la casa, perché non c'è fica e non ho mai messo piede. Ha detto mamma in zona Eor, l'unico riferimento monumento. Sì, ci ha provato. La commedia italiana, devo dire, è stato uno strumento formidabile di elaborazione della nostra mostruosità quotidiana. Il primo è stato memorabile, Dino Risi nel 63 con i mostri, i nuovi mostri Risi e Monicelli nel 77 e adesso finalmente Enrico Oldoini, I mostri oggi, l'ultimo film sui mostri. Ma i mostri che ci circondano hanno il volto affabile e generoso dei nostri migliori vicini. Luca, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Sì, velocemente, quali sono i mostri che tu conosci? Appunto, l'hai detto te, ti do del tu. Sono quelli col viso affabile che ti sono vicini tutti i giorni, magari ben vestiti, sempre ben disposti, e che magari autocertificano delle povertà che non hanno, che evadono e però pretendono i servizi dallo Stato. Questi io li vedo. Non fare il vago, tu parli di qualcuno che ben conosci, immagino. No, vabbè, gli esempi li abbiamo tutti i giorni, tutti i giorni, penso, di questi personaggi. Ce n'hai uno vicino, non devi dirmi nome, ma più o meno il grado di parentela ma che ti lega. No, io parlo di cose che succedono quotidianamente. Il grande professore che ti chiede una cifra esorbitante per una visita giusta e che poi alla fine ti dice fattura senza fattura. E, non so, io vedo questo. Ecco, perfetto, fermiamo. A me servono esempi pratici. È il grande professionista che ti fa una prestazione e poi non vuole assolutamente fare una fattura. Primo esempio di mostro. Una felice consuetudine dimostrare le deformazioni croniche con cui convive felicemente ogni italiano medio. Molte di queste appartengono alle categorie classiche delle bassezze umane, altre sembrano essere geneticamente più affini a un nostro carattere nazionale. Quante volte siete stati veri mostri nel vostro quotidiano? Quanto siete disposti a confessare la vostra parte mostruosa? Insomma, quanto siete stati consapevolmente e freddamente bastardi dentro? L'accettiamo, è una di noi. L'accettiamo, è una di noi. Tra poco sarei come una di loro, mia! Piccola Cleo! Una di noi. Vi odio! Una di noi. Schifosi! Una di noi. Mostri! La bella Cleopatra non accetta di far parte del consesso dei mostri perché lei non è consapevole di essere la più mostruosa di tutti. 800240024. Cominciamo ad osservare il grado di mostruosità che abbiamo al nostro interno. Quanto noi siamo capaci di azioni mostruose, di azioni vigliacche, di azioni infami. Quanto dissimuliamo, mascheriamo queste azioni. E quanto, quindi, per l'esperienza della nostra vita mostruosa, siamo capaci di individuare la mostruosità che c'è accanto. 800240024, dopo le informazioni dalla borsa, preciso, non sforrò nemmeno di un secondo, vi prego, datemi il vostro mostro per aggiungerlo alla mia collezione. 800240024, con grande soddisfazione sto aggiungendo pezzi formidabili alla mia collezione personale di mostri. Serena mi scrive su Facebook: mia nonna 93enne, anzi 99enne, quasi come la Montalcini che ha compiuto 100 anni, pretende di perpetuare il matriarcato imponendo legge a figli, nipoti, pronipoti. Pensate, la mostruosa nonna quasi centenaria che ancora impugna lo scettro e riesce a tenere in mano le palle di tutta la famiglia strizzandole a suo piacere. Mi fa veramente impazzire questa idea e la metto subito nel posto d'onore della mia collezione di mostri. Poi vediamo se Andrea ha qualcosa da aggiungere. Andrea, qual è il suo mostro? Ho molto spazio vuoto nella mia parete dove appendo tutti i mostri della mia fantasia. Andrea. Sì, io ho fatto un ragionamento sul discorso dei leaders, che sono sostanzialmente i nostri grandi boss di lavoro che ci deludono molto spesso. Allora, il capo al lavoro è un mostro? Il capo al lavoro, il più delle volte, o il leader della nostra società, hanno un ego ipertrofico e non consentono e non danno spazio agli altri. Eh beh, scusi, se no che leader sarebbero? Il leader deve avere un ego ipertrofico. Sì, però il vero leader è il leader che fa crescere gli altri. No, il vero leader è quello che comanda, che amministra il potere. Questo discorso l'abbiamo già fatto, non pensiamo che possa esistere una maniera buona di gestire il potere. I mostri, secondo me, sono coloro che stanno attorno ai leader, coloro che stanno attorno al capo. È la corsa viscida e meravigliosa da osservare del privilegio agli occhi del capo. Orienti la sua attenzione verso questa zona e mi dica cosa vede. No, perché il punto vero è c'è un discorso di principio paterno. Allora, se noi nei confronti dei nostri figli fossimo ipertrofici, i nostri figli non crescerebbero, la società rimarrebbe com'è. Mi sembra molto interessante il discorso del patriarcato, del matriarcato, in quanto secondo me una donna che riesce a non assimilarsi al leader maschio forse potrebbe portare una... Sì, ma lei teorizza, io vorrei esperienze sulla carne, simili alla mia allucinazione mattutina di quando vedo mostri accanto a me seduti sulla metropolitana. Esca un attimo dall'ideologia, se sì. Possibile. No, vabbè. Se no diventa lei un mostro. No, il mio non è un discorso ideologico, è vissuto sulla pelle, nel senso che si è potuti essere leader, ma non c'era spazio che per il leader massimo. Quindi l'hanno fottuta? No, diciamolo, mica c'è niente di male, questo è una trasmissione. No, vabbè, questo rientra nel discorso privacy, io ne faccio... Ma scusi, qua siamo qui per confessarci, mi dispiace, devo segarla, purtroppo lei rifiuta di denunciare il suo mostro e quindi viene segata. Cristiana, buongiorno. Buongiorno, Gianluca. La motosega è vicina alle tue ginocchia, quindi vediamo se sei sincera. Ecco, sono molto contenta se di sei sincera. Cosa. Così diventerò una freaks perfetta proprio in tema con la trasmissione. No, però tu dici una cosa interessante. Tu hai paura del mostro che sta dentro di te quando vedi le persone vicine, le vedi come mostri e vorresti azzannarle o segarle o cose del genere? Ma sì, tendenzialmente sì. Io ho un problema proprio... probabilmente sia una cosa psicologica. Io mi sento piena di cattiveria che devo reprimere perché in realtà ho... E perché reprimerla? Ma perché non si può essere cattivi, è molto scorretto. Io sono una brava fanciulla, sposata, madre, d'aspetto anche gradevoluccio, diciamo così. Per Il fatto che tu sottolini la tua gnoccaggine alla radio, già sei già dall'altra parte della barricata, scusami. No, questo mi piace perché è un carattere di mostruosità che apprezzo e sto pronto per inchiodarti al posto libero della mia galleria dei mostri. Perfetto, allora ti confesso una cosa che proprio mi darà più o meno al primo posto. Io non sopporto i figli degli altri. Meraviglioso, nessuno li sopporta. I bambini degli altri è una cosa terribile perché li trovo noiosi, fastidiosi, pedanti, urlano, sporcano e danno fastidio. Quindi io ho un bambino e ne aspetto un altro. Penso che sia una cosa veramente orrenda. No, questa no, è veramente una mostruosità che una madre pregna sul punto di dare alla luce al suo bambino esprima questa sua... vergognosa secondo una morale comune ma meravigliosamente e felicemente sincera espressione che odio i figli degli altri. Ma è vero, tu pensa quanto noi siamo mostri quando imponiamo agli altri i nostri figli pensando che siano dei meravigliosi, intelligenti, divertenti batuffoli che rendono lieta l'aria attorno e invece l'appestano, invece rompono le scatole da morire. Tanto è vero che... e poi questa, guarda, io credo che sia un'opinione diffusa tra le donne, però sono veramente pochissime quelle che hanno il coraggio di confessarla, perché poi una donna che diventa madre deve essere automaticamente una madre totale, cioè amare tutti i figli di tutti i bambini del mondo. Non è vero, si amano molto i propri figli, questo sì, anche se rompono le scatole anche loro, però si è in realtà infastiditi dai figli degli altri perché replicano gli stessi comportamenti che hanno i tuoi, però tu sei giustamente pronta ad accettare i comportamenti dei tuoi, ma non quelli degli altri. Adesso ti voglio istigare a un'azione ancora più criminale. Immagina il figlio di un'altra persona in una festicciola che compie un torto terrificante di confronti tuo figlio, cosa faresti? È successo, in realtà non fai niente. Sì, guarda, chiaro, ma nella mente, dalla ghigliottina alla sega motore, cosa ti passa? Guarda, mi verrebbe in mente il ceffone, cioè proprio il ceffone sulla, un po' sulla nuca, sai, quella zona, e fa zitto bambino odioso. Sì, però che rischia lo spezzamento di una vertebra e quindi la paralisi del bambino, quindi torna al tuo felice momento e goditi la tua gravidanza. Ti saluto, Cristiana, e passiamo a una esemplificazione della commedia italiana di quelli che sono i mostri attraverso i tempi. Allora, nel 63 il film di Risi, che dava i mostri come erano concepiti in una società in crescita, una società meravigliosa che viveva nel delirio dell'onnipotenza del boom economico, Tognazzi va a trovare, ahimè miseramente, la sorella morta che viveva in città e pensavano tutti che facesse la parrucchiera o la massaggiatrice, non ricordo bene, ma in realtà faceva la prostituta con la pudicizia e la verecondia di quel tempo. Era il tempo dello scandalo Montesi, immaginate, quegli anni lì in cui sapeva benissimo che queste polpute ragazze di provincia in realtà avevano frequentazioni molto eccellenti. E Tognazzi naturalmente finge sconcerto alla scoperta della sorella prostituta, ma in realtà cinicamente poi cerca di vendere il diario con le memorie delle illustri frequentazioni di sua sorella. Io sono Battacchi, fratello della povera Elidi Battacchi. Venga, venga, il redattore capo lo riceve subito. C'è solo da augurarsi che l'assassino venga scoperto. Ecco, vede, signor direttore, io mi sono permesso, è vero, cercare di vederci un pochino chiaro su questa disgrazia che ha colpito la mia famiglia, tutti, insomma, anche la povera Elide. Si faccia coraggio, mi dica, signor Battacchi. Quando sono andato nell'appartamento della povera Elide, ho trovato il diario della povera Elide. Di sua sorella? E c'è scritto qualche... Tutto, c'è scritto tutto qua, quello che faceva, da quando è venuta a Roma. Tutto quanto, insomma, io non lo so, io non riesco a capire, io non lo so come ha potuto conoscere tutti quegli uomini lì. Era una brava ragazza, onesta. 17 luglio, andata a casa, commendator Beppe Bogogna, moglie fuori in villeggiatura, poi c'è anche un numero, 25.000, non so, forse il numero di telefono. Mettere in piazza tutto quello che ha fatto la sorella non è mica una bella cosa, sa. Il giornale d'Italia voleva il diario della mia povera sorella, ma io non gliel'ho mica dato. Sono andato là, non so cosa mi avevano offerto. 3 milioni mi avevano offerto, ma io non gliel'ho mica dato. No, io sono venuto qui da lei. Ho pensato che se lei mi può dare qualcosa di più, 3,5 milioni magari, io glielo do lei, guardi. Perché, beh, proprio per una questione affettiva. Il suo era il giornale che preferiva, sa. Al tempo il dossier sullo scandalo dei balletti segreti degli uomini potenti rappresentava il frisson più potente che eccitava le masse. Spostandoci ai giorni nostri, al film dei mostri di oggi di Enrico Oldoini, il remake di questa scena è una Sabrina Ferilli in un supermercato con una bambina che fa la spesa. Improvvisamente la bambina si perde e si scatena la macchina della televisione, del chi l'ha visto, e la mamma elabora così velocemente la scomparsa della figlia nella frenesia meravigliosa di sentirsi al centro dell'attenzione televisiva. Signora, sono Massimo Giletti. Ero qua vicino con la nostra troupe, stavamo facendo un servizio quando abbiamo saputo quello che è successo a lei e alla sua bambina. Allora, sarebbe importante che lei ci desse un'esclusiva per raccontare la sua storia. Potrebbe essere molto importante anche per sua figlia, capisce? Grazie. Prego chiunque abbia preso la mia bambina di non farle male. Ve ne supplico. Elisa è piccola. È la mia bambina, è la mia testa, è il mio cuore. Non fatele del male, ve ne supplico. Mi metto in ginocchio, riportatemela. Telefonino, è mio. Sei pronto? Pronto? Signora, buongiorno. Io ho visto in televisione che è perso una bambina. Io lavoro lavapiatti, avanti in croce dell'Olimpica. L'Olimpica? Che c'entra l'Olimpica? Come? Sua bambina sta con me, venga a prendere per favore. Non riesco a sentire niente, qui non c'è un filo di ricezione, ma ha sbagliato momento, guardi, ma non mi può richiamare più tardi, abbia pazienza, su. Oh, roba è piena di megalomani. Dove eravamo rimasti? Alla bambina. La bambina, ecco. Allora, dopo una giornata di lavoro, io sono arrivata in questo supermercato. Francesco, buongiorno. Mostruosità legate alla vanagloria e al brivido di felicità che ci dà la visione della televisione, cioè di vedere noi stessi rappresentati in televisione. Francesco? Sì, pronto? Eccomi. Ecco, io ho 69 anni, sto passando 50 anni quasi con mia moglie, da quando siamo sposati, fidanzati. Sei mesi fa hanno fatto una diagnosi qui a Forlanini di Roma di un tumore inoperabile a mia moglie, nonostante che tutti gli esami precedenti invasivi e anche quelli successivi dicessero che aveva cellule tumorali. Nonostante questo, un medico del Forlanini ha insistito, facendomi firmare anche il pagamento, e anche in orari di visita, che non erano di visita perché erano di guardia, un documento in cui diceva come ultima, come unica cosa, che questo che il polmone destro doveva essere tolto, cioè lasciava al padre. Ma com'è finita? Perché siamo in conclusione della trasmissione. Com'è finita e dove sta la mostruosità? Ecco, è finita che mia moglie ha avuto una polmonite. Quindi non era un tumore? Non era un tumore. Per 6 mesi, io ancora adesso, dopo 6 mesi, non dormo la notte. Mia moglie si ride. Tutto qua. Per voi la mostruosità è coloro che vi hanno diagnosticato sbagliando un tumore che in realtà non c'era? Non c'era, ma ha fatto addirittura controfirmare, poi non dava soluzioni questo medico. Beh, senta, si consoli, pensi se fosse stato il contrario, che le diagnosticavano una polmonite, in realtà fosse stato un tumore. Quindi la mostruosità in questo caso è lievemente disciolta nel sollievo del fatto che sua moglie non aveva questa malattia così difficile, ma un'altra malattia. Comunque capisco, il mostro per lei è il medico che insisteva sul fatto che sua moglie aveva quella malattia. Anche da altre cose molto gravi. Sì, vabbè, entriamo, semplifichiamolo, se no. Il mostro comunque ve lo sognate la notte insieme, quindi è un mostro collettivo. Questo mostro a 70 anni voglio sognare questo mostro. Ah, bene, speriamo che questo sogno mi faccia passare altri ancora peggiori. Ah, che bella questa storia di mostruosità che mi scrive Rita su Facebook. La maestra di mia famiglia, dolce, bionda, rotonda, ma all'improvviso sadica, mette in punizione seduti e immobili bambini, non vuole che parlino di amici e vuole essere solo lei al centro dell'attenzione quando sembrava il contrario. Ah, bellissimo. La maestra che vuole essere vezzeggiata come se fosse Maria De Filippi dai suoi alunni e quindi li tiene lì fermi, immobili, in punizione perché questi vorrebbero parlare di amici. E mi viene da pensare che nei mostri del 63 c'è un episodio che in fondo ci dimostra quanto è facilmente derivabile, cioè c'è una deriva molto percepibile, la percezione della mostruosità soltanto a differenza di qualche decennio. Nel 63 l'Italia del boom, l'Italia felice, l'Italia può permettersi tutto, si può permettere avere anche oltre la moglie l'amante. E quindi fra Buzzanca e Tognazzi, vicini di casa, c'è un simpatico battibecco sulla fedeltà della moglie. Ma certo è un po' tardino, eh? Però di pensarci bene, scusa, il film comincia alle 11, finisce all'1, fai conto, due chiacchiere con un'amica, un caffè, un gelato. Molto probabilmente non è uscita con Carla, sarà uscita con un'altra, che ne so. No, sento che non è così, sento che non è così. Non bisogna, dai, creare un colpevole prima di essersi accertati. Ma non dico che sia colpa tua, dico soltanto che quando uno è geloso non lavora di notte, ecco. Stefano, parlaci tu, a te dice tutto. A te ti sente, sei come un padre per lei, l'hai vista nascere. Poi ci sono cose che si confessano più facilmente a un estraneo che al marito. Stefano, parlaci tu. Il matrimonio ti ha rovinato, sai. Ti è venuta una faccia da deficiente. Io non so cos'è. Facciamo una cosa. Domani cos'è? Giovedì? Tu mi inviti a casa tua, vengo a pranzo. Poi magari approfitto di un momento che non ci sei e parlo con tua moglie. Però adesso per favore vattene, eh. Io sono stanco, domani mattina mi devo alzare presto. Domani sono a pranzo da te, eh. Ho sentito. Naturalmente Tognazzi era quello che si faceva la moglie di Buzzanca, il vicino di casa cui chiedeva un aiuto, una buona parola, era proprio la ragione e la radice di ogni suo turbamento. La stessa cosa accade nel film di Oldoini, dei tempi nostri, in cui Panariello bussa alla porta di Diego Abbatantuono, insegnante e tutore del suo figlio, per confessargli qualcosa di inconfessabile. Allora, mi dica. Sto male, male, male, male, male. Allora dovevo andare dal medico, io non c'entro, che posso fare? Il medico? La mia moglie ha parlato anche con Don Luigi, ma io dei preti mi fido, non mi fido. Fa benissimo, l'ascolto. Io ora mi ammazzerei, una coltellata, mi ammazzerei. Però siccome è notte... Si tratta del mio figliolo. Che c'ha, sta male Tonino? No, fisicamente sta bene, poverino. L'ho visto anche ultimamente, mi sembrava tutto a posto, no? No, con lo studio va bene, si applica, è un ragazzo volenteroso, anche grazie a lei, professore, perché lei, mio figliolo, l'ha cambiato da così a così. Il mio mestiere, ho fatto quello che potevo. Fatto anche troppo, professore. Naturalmente il viraggio, il cambiamento alla luce del pensiero politicamente corretto è che naturalmente il tutore e il figlio di Panariello hanno un rapporto tra loro che è un po' più profondo di quello che è fra discepolo e suo istruttore. Ma qual è il problema? Il problema è che mio figliolo tutte le sere dice che va fuori a studiare, no? Anche stasera dice va fuori, va a studiare, e invece sono venuto a sapere che va a studiare, va da un'altra parte questo disgraziato. Avrà una ragazza, è normale, no? No, non è normale mio figliolo, professore, non è normale. E c'ha un uomo! E mio figliolo si vede con un uomo! Adesso lei vada a dormire, vedrà che si ripostano. Professore, io sono convinto che mio figliolo lei la sta a sentire perché la stima tanto. Gli può preparare la zuppa di farro dalla mia moglie. Naturalmente butta già lì la battuta, gli faccio fare da mia moglie anche i fagioli all'uccelletto, che so che lei li garbano molto. E in questo si capisce che poi consumerà una sua vendetta, ma non voglio bruciarvi il piacere di vedere il film. Manfredo, buongiorno. Ciao, buongiorno. Esempi di mostri concreti, finalmente. Radicalizziamo sempre no. I luoghi comuni, ma parliamo dei nostri mostri. Senti, il padre di un mio amico che si vantava pubblicamente di essere riuscito a farsi passare la macchina come alluvionata nel 66, mentre invece non era vero nulla. Un grande mostro, come quelli che oggi butteranno giù le case a picconate dicendo di essere terremotati. Esatto. Ce ne saranno tanti. Prego. Poi altri mostri che non sopporto sono appunto i giornalisti che quando c'è un evento luttuoso vanno dalla gente con la faccia di circostanza a chiedere come si sente. Cioè io li impiccherei direttamente. No, c'è di peggio, se mi permette, conoscendo bene la categoria a cui gloriosamente o infamemente appartengo. Andare da un parente di qualcuno massacrato, ucciso, stuprato, tagliato a pezzi, dire se la sente di pronunciare il perdono per gli assassini del suo parente, del suo marito, del suo figlio. Ecco, la richiesta di perdono, perché uno di fronte alla televisione dovrebbe perdonare e perché il perdono dovrebbe essere qualcosa di pubblico, ufficiale e soprattutto richiesto. Grazie Manfredo. Maurizio. Ciao. Maurizio, vedo che stiamo cominciando ad entrare finalmente nell'esperienza personale, vi siete sciolti. Sì. Allora, una collega o un collega si comporta da mostro? Sì, io ho il mio esempio di mostro, è un collega che noi lavoriamo in turno, quindi la collaborazione dovrebbe essere la cosa più normale, no? Perché ciò che non finisco io dovrebbe finire lui e viceversa. Invece ogni volta che ci cambiamo le consegne diventa è un mostro, viene sempre arrabbiato, c'ha sempre da ridire qualche cosa sulle cose che io faccio. Lui è sempre superiore a quello che fanno gli altri e si comporta proprio in modo da mostro. Ogni evento che si verifica è perché qualcuno ce l'ha con lui, perché e si deve vendicare di questa cosa. E quindi io lo vedo come un mostro, perché un collega, un amico, una persona che ci lavora insieme non dovrebbe essere così. Ecco, questa mostruosità secondo lei è avvertita collettivamente o in realtà sì. Ognuno di voi è mostro? No, nel suo... Tutti gli altri sanno che è un mostro, tutti gli altri si comportano, hanno questo rapporto con lui in maniera uguale, nel senso che avvertono questa astiosità nel comportamento, e spesso ne parliamo, no? Diciamo, probabilmente si comporta così anche in famiglia, con la moglie, con i figli, quindi non penso che un mostro solo al lavoro, ma questo modo di rapportarsi con l'altra persona. Comunque lei ha sintetizzato e mirabilmente incorniciato una figura stereotipa di mostro d'ufficio. Il paraculone che fa fare sempre il lavoro agli altri, poi si piange addosso, poi si sente vittima e sente soprattutto un grande incompreso. Roberto, buongiorno. Buongiorno, volevo segnalare, qualche giorno fa sul treno, prima classe, Eurostar, posto prenotato, mi sono seduto e sono seduti davanti a me due persone, un deputato col portaborse, puzzavano di pecora in un modo che non è certo. Anche i deputati puzzano. Una cosa bestiale. E articolavano delle frasi che non si sapeva se era italiano o che cos'era. E il portaborse, apertamente, parlando forte, nominando altri membri del Parlamento, stava cercando su internet come aggirare con dei cavilli determinate norme. E davanti a lei, impunemente? A me, davanti agli altri, un signore che sta vicino a me si è alzato, incassato come una bestia, e se n'è andato. Dallo sdegno? Dallo sdegno, proprio una cosa vergognosa. Beh, lei invece, scusa, ha fatto bene a rimanere seduto? No, mi sta regalando questo meraviglioso reperto che mai avrei immaginato di potermi attaccare a muro. Nicoletti, sono rimasto 10 minuti, poi mi è scappata una parolaccia, mi sono alzato e pur avendo pagato il biglietto, prenotato, col posto me ne sono dovuto andare, perché questi due oltretutto non hanno pagato nemmeno il biglietto. Beh, e quando è arrivato il controllore ha fatto vedere con sufficienza un tesserino e il controllore li ha anche salutati militarmente. È una scena, sono stato male 2 giorni. Ma cioè si è messo sull'attenti, ha fatto il saluto militare? Quasi, sì, ha portato la mano alla fronte salutando con mezzo inchino. E questa gente, io non so da dove veniva fuori. Vabbè, ma e si allega, viene fuori dal nostro immaginario più riposto, viene fuori dal nostro maniera di esprimerci, esprime noi stessi. Allora, io non voglio sembrarle qualunquista, ma i nostri rappresentanti ci rappresentano perfettamente. Lei ha avuto una fulminante possibilità di avere davanti a sé come uno specchio della nostra essenza più nascosta. L'onorevole puzzolente di capra, furbacchione con il portaborse che cerca in internet la maniera e di fregare gli altri, e soprattutto il vero mostro è il controllore che batte i tacchi e saluta militarmente. Grazie a Fabrizio Intonti, a Paolo Corleoni, e con i mostri per oggi abbiamo chiuso, ma penso che ne avremo ben lungi da parlarne anche i prossimi giorni. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.